Con la finanziarizzazione la casa passa da essere un bene di uso a essere un bene di scambio. Quindi se prima la casa era concepita solo come il luogo dove si abita, con la finanziarizzazione diventa un bene da scambiare nei mercati finanziari, quindi da comprare e poi rivendere per ottenere il profitto più ampio possibile. Gli attori della finanziarizzazione sono i grandi fondi immobiliari, le banche, le assicurazioni, tutto il mondo del real estate. E tutto questo naturalmente va a discapito di chi realmente abita nelle città, che vede i prezzi crescere drasticamente, e così questi cittadini vengono espulsi e di fatto allontanati verso le periferie. Dinamiche che appunto vediamo in diverse città. E quindi la domanda che volevo farti adesso è, appunto, nel libro raccontate tre città diverse che sono Bologna, Roma e Milano, e quali sono le dinamiche comuni rispetto appunto a quello che è accaduto intorno alla casa e quanto invece c'è di peculiare di ciascun contesto? Sì, ecco, noi abbiamo scelto queste tre città perché in qualche modo sono simboliche di una crisi abitativa che di fatto colpisce tutte le città italiane e che fa sì che ci sia sempre più difficile accedere a un bene fondamentale come quello della casa. Quindi la cosa in comune è che sia a Bologna, sia a Milano, sia a Roma stiamo assistendo all'espulsione degli strati medio-bassi dalla città, mentre naturalmente ogni contesto poi ha le sue peculiarità. Quindi appunto Milano è la capitale, se vogliamo, della finanziarizzazione, che ha puntato su regimi fiscali particolarmente favorevoli per gli ultraricchi che quindi decidono di prendere la residenza, no, in città. Bologna invece è un po' un laboratorio per quanto riguarda il fatto che l'innesco della crisi abitativa parte dalla presenza degli studenti e poi si somma a quella dei turisti. Roma invece è come se fosse un po' una città-villaggio, se vogliamo, dove ogni quartiere ha delle dinamiche diverse. Noi ad esempio abbiamo studiato la questione di Centocelle, dove la gentrificazione sembra passare da nuove attività commerciali che però fanno anche temere un possibile ingresso della criminalità organizzata. Quindi ci sono delle dinamiche molto diverse, ma in tutti e tre i casi di fatto lo spazio pubblico che i cittadini possono considerare ancora di tutti e tutte è sempre meno. Una domanda che appunto anche nel presente con chi si trova, come dire, ad avere problemi relativi alla casa si sta ponendo è: che ruolo ha giocato la politica in questi processi, nei processi che raccontate, e quali potrebbe invece giocare nella soluzione del problema? Cioè, i capitali finanziari hanno preso il controllo o c'è ancora spazio per la politica per cambiare le cose? Sì, infatti, allora, diciamo che oggi il pubblico sembra avere sempre meno risorse da investire e così, per quanto riguarda lo sviluppo delle città, assegna gli spazi ai privati per trasformarli e, come si dice, rigenerarli, no, tra virgolette. Il problema è che poi spesso questi spazi non tornano pubblici e quindi a quel punto sono i privati a decidere come usarli. In questa dinamica il pubblico sembra essere molto debole nella negoziazione col privato ed è il privato a farla da padrone. Oggi sicuramente c'è ancora una possibilità di cambiare le cose, ma per farlo bisogna ricostruire una discussione e soprattutto una collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini. Noi abbiamo trovato degli esempi positivi in ognuna delle città che abbiamo analizzato. Ad esempio a Bologna l'occupazione di Carracci Casa Comune è sicuramente uno di questi, perché si è risolta con un accordo con il comune che ha permesso a decine di famiglie di non finire in strada. Quindi la direzione è quella e deve essere sempre più quella, anche perché ormai non si può più aspettare. Nel vostro libro, accanto alla descrizione, insomma, di processi sociali, economici e anche politici, ci sono storie di persone che hanno avuto a che fare appunto con il problema della casa. Perché è importante raccontare le storie? Le storie, diciamo, che ti permettono di calare nel reale le grandi dinamiche che magari ci sembrano lontane, come le logiche finanziarie, gli spostamenti internazionali del capitale, ma anche i regolamenti amministrativi, no, che parlano un po' un'altra lingua. Noi abbiamo raccontato diverse storie nel libro e tra queste una delle più emblematiche su Bologna è la storia di Manaf, che è uno studente tunisino che ha passato il test d'ingresso per l'Università di Bologna e quindi per lui è stato un po' la realizzazione di un sogno, quello di venire in Europa, ma quando poi è arrivato nella nostra città per più di un anno non è riuscito a trovare casa e quindi, per non perdere il posto, ha vissuto in diverse situazioni, tra cui in un ostello sull'Appennino a Monzuno, in due occupazioni abitative, addirittura in un certo periodo all'interno dell'università stessa quando c'era un'aula occupata. Quindi la sua storia diventa emblematica ed è un po' il simbolo di come oggi il diritto allo studio in una città che storicamente è universitaria come Bologna è strettamente legato al diritto all'abitare, e se non tuteliamo uno di fatto viene violato anche l'altro.